vere, colore rosso sangue, macchia del potere, tutto basato sul profitto, conflitti di interessi versano legami in buste con cifre d'affitto, occhi gonfi di rabbia da non confondersi con la mia forza, legami tipo castello di sabbia che crolla perché adesso nessuno più ascolta, non so se arriverò ad un risultato realmente voluto, non sono mai cambiato per il lucro, non ce l'ho mai avuto, zero cash in abbondanza, vivo la sua latitanza, non do peso né importanza alla carta che arriva per distruggere ogni alleanza, scioglie legami di fratellanza, sfrata sentimenti dalla stanza, ne ho abbastanza di chi sfoggia un'etichetta con tanto di prezzo più va inclusa, squalidi venditori di accusa sotto scusa, sono il blocco sotto, quindi strada conclusa, rime mosse tra vicoli, piazze e locali, marci tra costa e paesi, sostituiamo medaglioni con campanacci. Pensioni, penso, e nel pensar divento pazzo, che tutto il mondo è creato dallo sputarmi cazzo. Pensioni, penso, e nel pensar divento pazzo, che tutto il mondo è creato dallo sputarmi cazzo. Chiedi a quelli che come me stanno nella roccia, vivono i giorni persi, sai, come una goccia. Nel mare, la vita nelle strade, le notti nei gradini di un quartiere popolare, seduti nelle scale, per ore ore a bere e fumare, vedere l'alba sorgere e il sole tramontare, nada politica che può cambiare questo nostro modo di pensare, su e giù per il mondo, libero come un vagabondo. Chiedilo a quelli che come me stanno nella roccia, rap e dancehall, uomini di costa chiusi dentro questo flow, suoni immersi tra giorni persi, ritornano sotto forma diversi, riattivano battiti diversi, tempi che cambiano, uomini che restano gli stessi, giorni che cancellano i propri marchi impressi. Penso e ripenso e nel pensar divento pazzo, che tutto il mondo creato dallo sputar del cazzo. Penso e ripenso